Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore, siete all'ascolto della serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle città italiane, La casa è un diritto. Un problema che è quello della crisi abitativa che è presente in ogni contesto cittadino da nord a sud. E oggi nel nostro lungo viaggio ci spostiamo a Brescia, esaminando il problema con Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti di Brescia. Ciao Umberto! Ciao, ciao Salvatore, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ti faccio una prima domanda, ovvero come, quando e perché nasce l'Associazione Diritti per Tutti? Allora, l'Associazione Diritti per Tutti è nata a seguito di alcune grandi mobilitazioni per i diritti dei migranti e in particolare per i permessi di soggiorno della sanatoria. Quindi è nata dopo una grande lotta che ha visto la nostra città nel 2000 vedere 54 giorni di occupazione di una piazza principale, la piazza del municipio, Piazza della Loggia, con imponenti manifestazioni che raggiunsero anche i 10.000-15.000 partecipanti, con uno sgombro della piazza, una rioccupazione della piazza. E, insomma, un ciclo di lotte molto, molto potente che aveva portato poi alla riapertura dei termini della regolarizzazione della sanatoria. Quindi è nata principalmente occupandosi di lotta per i diritti dei migranti, per il permesso per tutti, il permesso di soggiorno per tutti e per tutte, e contro ogni forma di razzismo e discriminazione, insomma, adesso per essere molto, molto, diciamo, sintetico. Nel 2010, essendo comunque conosciuta proprio come punto di riferimento, in particolare delle comunità migranti, per le mobilitazioni, poi ovviamente dal 2001, dal 2000, poi il 2001, tutta la mobilitazione contro la legge Bossi-Fini, che era in corso di approvazione, e poi le mobilitazioni che ci sono state negli anni successivi anche su tematiche locali, insomma, hanno fatto sì che l'associazione fosse considerata, venisse e venga considerato un punto di riferimento per le comunità migranti della nostra città, che, come sapete, vede una presenza di migranti, molto rilevante per le dimensioni, insomma, della città. Noi abbiamo circa 200.000 abitanti, di questi 35.000 sono considerati stranieri, cioè sono ancora migranti senza, diciamo, la cittadinanza, ma ben 16.000 hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso degli ultimi 10 anni. Quindi complessivamente in questo momento, nella città di Brescia, 50.000 persone, quindi un cittadino, una cittadina su quattro, sono di origine migrante. Tanto per dare un altro numero che permette di capire la società sempre più interculturale e caratterizzata, insomma, da questa grande convivenza. Nella nostra città ci sono 141 nazionalità presenti e attualmente più di un bambino, una bambina che nasce in città è di famiglia dove almeno un genitore ha un retroterra migratorio. Quindi o sono coppie, diciamo, di migranti, oppure sono coppie miste, ma in cui esiste un genitore con un retroterra migratorio. Questo per dare l'idea, insomma, del fatto che c'è una presenza considerevole di migranti, e quindi un'associazione come la nostra, che si era fatta conoscere proprio per battersi, insomma, per i diritti dei migranti, è stata considerata punto di riferimento anche quando, attorno al 2010, è arrivata l'onda lunga della crisi finanziaria arrivata dagli Stati Uniti, che si è abbattuta pesantemente anche sul territorio bresciano, in particolare cancellando centinaia, migliaia di posti di lavoro dentro la manifattura e l'edilizia, che sono due settori, quindi costruzioni, che sono due settori su cui si regge fondamentalmente, insieme all'agro zootecnico, l'economia bresciana. Nel 2010, quindi, il primo sfratto di cui veniamo a conoscenza, perché un migrante, la famiglia di un migrante che aveva già appunto attraversato con noi le lotte per l'affermazione, insomma, dei diritti e dell'ottenimento del permesso di soggiorno, si presenta perché la sua azienda, dove lavorava da diversi anni, fallisce. Lui diventa vittima, lui e la sua famiglia diventano vittima della morosità incolpevole, e quindi era il 31 gennaio del 2010, abbiamo il primo picchetto antisfratto. Da allora praticamente si è aperto un settore di intervento che ha visto negli anni attorno al 2013-2014 arrivare nella nostra provincia anche a più di 2000 sentenze di sfratto ogni anno. Si sono toccate addirittura i 2300 nuovi, diciamo, provvedimenti, scusate, stavo dicendo procedure, provvedimenti di sfratto in un anno, con da parte nostra un numero di picchetti che ha toccato numeri veramente impressionanti, appunto nell'ordine delle centinaia ogni anno, in quegli anni lì, che sono stati appunto attorno al 2013-2015. Poi man mano c'è stato, diciamo, un lento e progressivo però calo del numero delle sentenze di sfratto, fino poi alla crisi, insomma, della pandemia, e quindi poi a un aumento ancora di questo numero di sfratti. Siamo comunque oggi a numeri decisamente inferiori di quelli che hanno caratterizzato appunto quegli anni 2012, 2015, 2016, perché l'ultimo dato relativo agli sfratti dell'anno scorso è di 700 circa sfratti tra Brescia e provincia, e quindi siamo a praticamente un terzo di quelli che abbiamo avuto negli anni più drammatici dell'emergenza sfratti. Però ovviamente la situazione è grave, perché seppur ci sono meno sfratti per morosità, abbiamo tanti pignoramenti immobiliari. In questo caso soprattutto famiglie che avevano acquistato la casa accendendo un mutuo, che nel corso della pandemia hanno avuto una diminuzione di reddito, non sono più riusciti a pagare le rate e hanno avuto il procedimento di pignoramento, che adesso, diciamo, porta poi alla vendita, all'asta delle loro abitazioni, e quindi abbiamo le esecuzioni legate anche a chi ha perso appunto l'appartamento in cui viveva a causa del pignoramento. Questa è la situazione, diciamo, per quanto riguarda appunto numeri di sfratti e pignoramenti, ma quello che rende ancora più difficile e drammatica in questo momento la situazione abitativa, cioè la questione abitativa di Brescia, è che nel corso degli ultimi anni, in particolare poi con quest'anno di Brescia Bergamo capitale della cultura, abbiamo assistito ad un processo sempre più evidente, ormai, che noi abbiamo denunciato, ma che oggi vede conferme anche ufficiali in ricerche che sono state commissionate dalle istituzioni, ed è quello della mancanza di case in affitto per l'esplosione, quindi collocazioni normali, per l'esplosione degli affitti brevi e degli affitti turistici. Alcuni dati da questo punto di vista. Noi avevamo già rinunciato questa difficoltà, se non impossibilità, di trovare una casa in affitto con l'occupazione che c'è stata il 4 febbraio scorso delle Case del Sole, di diciamo una quindicina di appartamenti in questo grande condominio di case popolari, dove però ci sono 4 piani che sono stati acquisiti dall'ALER e quindi dall'ente per l'edilizia residenziale pubblica, e quindi che sono case popolari, ma esistono ancora diciamo invece 5 piani, quindi ancora una quarantina circa di appartamenti che sono rimasti alla proprietà costruttrice, che era una società che si chiamava Finsibi, che poi è fallita. Questa una società immobiliare, insomma, questa società ha praticamente venduto una parte degli appartamenti all'ALER e gli altri li ha tenuti vuoti da ormai 8 anni. Successivamente, anche in questo caso, a causa del fallimento, la proprietà di questi appartamenti è diventata dell'immobiliare della Banca Nazionale del Lavoro, l'ETIM, che ha rilevato gli appartamenti appunto della ditta fallita. Quando noi abbiamo occupato questi appartamenti, abbiamo evidenziato un fatto: a essere senza casa non erano più, come accaduto durante la crisi finanziaria appunto del 2010-2014 o quella durante la pandemia, famiglie o persone che erano rimaste senza reddito, quindi che erano state licenziate, a cui non avevano rinnovato il permesso, scusate, il contratto di lavoro precario, e che quindi avevano una perdita di reddito. Ma ad aver bisogno di un appartamento dove vivere erano anche famiglie in cui c'è un reddito da lavoro, un reddito medio-basso, a volte neanche diciamo proprio da working poor, cioè da lavoratori poveri con un reddito, a volte anche con redditi da lavoro operaio, quindi con diciamo contratti che rispettano, come si può dire, i vari contratti nazionali del lavoro, nazionali, quindi con stipendi che sono nella media insomma dell'operaio, ma che non riescono assolutamente a trovare un alloggio per vari motivi, perché sono appunto famiglie che hanno comunque un reddito medio-basso, perché sono famiglie di origine migrante, perché sono famiglie che hanno bambini. Poi, ad esempio, tra gli occupanti abbiamo anche una famiglia invece che è una famiglia di diciamo italiani nativi, dove non ci sono bambini, c'è una mamma con 2 figli ormai maggiorenni, dei quali uno lavora anche con un buon stipendio, ma che non trovavano proprio perché in questo momento, come ha dimostrato empiricamente le famiglie che si rivolgono a noi, come poi hanno constatato le ricerche dell'Agenzia per la Casa, che è stata istituita dal Comune di Brescia, che avrebbe dovuto incrociare la domanda di appartamenti con l'offerta, no, sul mercato libero, sul mercato privato, e non è riuscita, nonostante abbia setacciato più di 150 agenzie del comune, della provincia, agenzie immobiliari, ha contattato le associazioni di proprietari, eccetera, eccetera, non è riuscita praticamente a trovare se non 4-5 appartamenti, mentre dall'altra parte aveva selezionato 200 domande di famiglie con capacità reddituale, quindi che avevano contratti che erano, come si può dire, anche considerati dall'Agenzia per la Casa del Comune di Brescia di garanzia, quindi contratti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi questa, diciamo, ricerca dell'Agenzia per la Casa aveva già dimostrato, insomma, veramente che il problema esisteva e che quindi quanto noi avevamo denunciato anche con quell'occupazione in cui quando avevamo detto non ci sono case in affitto, ma ci sono tante case vuote. E quindi la pratica dell'occupazione, oltre che essere legittima, è anche necessaria. Certo. Ma praticamente, sì, scusa, dimmi. No, stavo dicendo, la vostra lotta che fate, le occupazioni, i picchetti per quanto riguarda gli sfratti e gli sgomberi, viene ascoltata dalle istituzioni e poi ha smosso eventualmente la sensibilità dei cittadini e delle cittadine di Brescia in modo da poter appoggiare la vostra lotta? Allora, sicuramente ha portato all'attenzione di tutti i livelli istituzionali, piuttosto che quelli della cittadinanza, i mass media, eccetera, il tema. Nel senso che quando c'è stata questa occupazione e noi abbiamo detto oggi non trovano una casa in affitto, nemmeno le coppie di lavoratori, piuttosto che le famiglie dove ci sono redditi da lavoro, ma comunque che sono medio-bassi, ma anche non bassissimi, ebbene questo ormai è diventato un tema di cui si discute apertamente in città e che tutti, anche durante l'ultima campagna elettorale che è stata per le amministrative di maggio, è stato un tema che anche le forze politiche hanno dovuto affrontare con delle ricette, con delle promesse che non vedono ancora adesso, come si può dire, questi impegni trasformarsi in atti concreti. E non a caso noi stiamo, diciamo, pressando, proprio perché ad esempio una delle promesse della coalizione di centrosinistra che attualmente poi governa la città, insomma in linea di continuità con quella precedente, aveva fatto durante la campagna elettorale, era ad esempio di provvedere velocemente alla sistemazione, a riattare gli appartamenti di proprietà comunale che non sono assegnabili perché magari hanno bisogno di una piccola ristrutturazione, di lavori di manutenzione. Ecco, ce ne sono circa 400 di proprietà comunale, altrettanti di proprietà dell'ALER, e sono preziosissimi questi appartamenti, perché consideriamo che ogni anno vengono messi a bando per l'assegnazione circa 120, quest'anno addirittura anche meno, appartamenti, quindi insomma potete capire quanto siano importanti 6, 7, 800 appartamenti pubblici sfitti, cioè case popolari che non vengono assegnate perché appunto sono considerati in questo momento inagibili o comunque non in uno stato di agibilità per poter essere assegnati ad una famiglia, ad una persona. E quindi ecco, diciamo che le mobilitazioni antisfratto, i picchetti antisfratto, l'occupazione alle case del sole ha riportato l'attenzione sul tema abitativo, in particolare legato non più all'emergenza sfratti, che esistono ancora, ma non sono più un numero così esageratamente drammatico come quello appunto del 2013, 2014, 2015, però ecco, esiste adesso proprio un problema di impossibilità di trovare l'affitto. Oltre alla ricerca dell'Agenzia per la Casa, c'è stata un'altra ricerca commissionata da Campus Edilizia Brescia, dove ci sono il Comune, le associazioni di costruttori, dei proprietari edilizi, eccetera, eccetera. È stata una ricerca del CRESME, che è un centro di ricerca, e ha stabilito che sono dati del luglio 2023, la fotografia del luglio 2023, a Brescia erano disponibili a luglio 147 alloggi per la locazione, mentre in vendita c'erano 1588 case. e c'erano circa 500 disponibilità di affitti turistici. Ecco, per dare un'idea di qualche anno fa, cioè di qual era la situazione qualche anno fa, nel 2015, quindi 7 anni fa, c'erano invece disponibili per l'affitto 1172 appartamenti, adesso 147, cioè ce n'erano 8 volte di più. Vuol dire che la disponibilità di alloggi a disposizione del mercato della locazione normale è diminuito di 8 volte. Fai conto che, tra le altre cose, di questi 147 alloggi ci sono prezzi ormai che sono di questi alloggi che sono andati alle stelle. Certo. Da questo punto di vista siamo adesso attualmente a una media di 11,1 euro al mese per metro quadro, che è un più 54% rispetto a 10 anni fa, quindi con aumenti che sono estremamente alti, cioè anche per una città come Brescia oggi appartamenti appena appena sufficienti per una famiglia non numerosa viene a costare sugli 800 euro. Chiaro, chiaro. Quindi, chiaro. Ma poi leggevo, ho letto dei dati anche per quanto riguarda l'aumento di sia dell'housing sociale che di nuove costruzioni, quindi immagino che ciò abbia portato anche ad un aumento di cementificazione, ovviamente anche di speculazione edilizia. Allora, su questo, vabbè, adesso ci dovrebbe aprire un capitolo molto lungo, però mi limito a una cosa. Allora, l'operazione più grossa, che però non è partita, è stata quella legata alla Torre Tintoretto, che era un grande condominio di 195 appartamenti, case popolari, quindi era di proprietà dell'ALER, che veniva considerato però un simbolo del degrado, insomma, comunque che versava in condizioni che erano considerate, come si può dire, di criticità sociale, e che da prima l'amministrazione di destra, poi purtroppo questa cosa è stata avallata anche dall'amministrazione successiva di centrosinistra, è stata abbattuta, questo grande palazzo è stato abbattuto, per far sorgere invece 270 alloggi di housing sociale. Attualmente non è partita l'operazione, cioè c'è stato l'abbattimento, ma poi problematiche legate all'aumento dei costi di costruzione, eccetera, eccetera, insomma, questa operazione immobiliare doveva già partire, teoricamente si doveva costruire sul sedime di quello già esistente, quindi senza dare luogo a ulteriore consumo di suolo, però ecco, è un'operazione che non è ancora partita. Si è fatto qualcosa dentro alcune ristrutturazioni di aree dismesse, aree industriali dismesse, però quello che noi continuiamo a dire è innanzitutto che mancano le case popolari, quelle che vengono date a canone sociale. Chiaro. È ovvio che adesso in questo momento mancano anche delle case in housing, cioè, per dire, nel senso che noi abbiamo sempre detto che era stata una scelta sciagurata quella di abbattere 195 appartamenti che venivano assegnati a canone sociale, quindi a canone rapportato, proporzionato al reddito, perché è di questo che Brescia ha bisogno. Basti dire che per il bando a canone sociale l'anno scorso per 120 alloggi si sono presentati 1156 famiglie, cioè ci sono state quindi praticamente solo una per 94 alloggi erano arrivate 1156 domande con i requisiti, quindi fondamentalmente più o meno uno su dieci, una persona su dieci, una famiglia su dieci riesce ad avere a casa. E questo dimostra la forte esigenza, il forte bisogno di case a canone sociale. Dopodiché invece quello che possiamo dire è che in questo momento, per tutto il discorso che abbiamo fatto prima sulla mancanza di canone di case in locazione normale, servirebbero anche quelle a 350-400 euro di housing sociale, okay? Mm-hmm. Però noi abbiamo ritenuto che quella scelta fosse folle, perché ha privato Brescia di un come si può dire, di un palazzo con 195 appartamenti che erano ancora in buono stato strutturale, semplicemente perché esistevano, diciamo, alcune famiglie magari che presentavano delle problematiche di disagio. Ok, ecco, quindi questa grande operazione di sostituzione delle case popolari della Torre Tintoretto con questo grande complesso di housing sociale in questo momento non esiste, cioè non è stato posato neanche il primo mattone. Chiaro. Umberto, ti faccio un'ultima domanda. In questo quadro che hai fatto di crisi abitativa, come si può costruire e cioè portare avanti anche un conflitto sul tema? Voi ad esempio siete riusciti a fare rete con il Comitato Cardesano Autonomo e crediamo che questo tipo di lotta sia molto importante portarla avanti anche attraverso la creazione di reti tra i vari collettivi. E poi ti chiedo, quali sono eventualmente le prossime iniziative di lotta che avete, diciamo, in cantiere come appuntamento? Vabbè, noi abbiamo settimanalmente i picchetti antisfratto, perché comunque seppur non siamo ai livelli appunto del 2012-2015, però abbiamo settimanalmente picchetti antisfratto. Questa mattina è stato bloccato un'esecuzione di un pignoramento immobiliare, giovedì saremo impegnati invece in alcuni picchetti per bloccare esecuzioni per sfratti per morosità incolpevoli. Quindi questa è una pratica ormai che possiamo dire che dal 2010 non vede settimana in cui, ecco, forse c'è stata una settimana, due, tre, non mi ricordo neanche, in cui non ci siano stati picchetti. Però ecco, è una pratica veramente che... Ecco, quotidiana, si può dire. Settimanale, diciamo così, settimanale. Mm-hmm. E poi a breve, dopo le festività natalizie, abbiamo in programma un presidio all'Aler per chiedere innanzitutto che vengano messe più alloggi nel bando che dovrebbe uscire per febbraio-marzo. Quindi chiederemo che vengano messe più alloggi e che si provveda rapidamente anche a definire un cronoprogramma di interventi di manutenzione per rendere agibili gli alloggi dell'Aler e del Comune che attualmente sono fermi, sono vuoti e non possono essere assegnati appunto per la mancanza di ristrutturazione e di riadattamento. Questi, diciamo, sono gli appuntamenti prossimi. Ovviamente poi stiamo dentro il ciclo di mobilitazioni nazionali della rete di realtà dei movimenti per il diritto a abitare di tutta Italia, che stanno costruendo delle iniziative anche contro il DDL sicurezza, che come sapete prevede purtroppo delle pene molto alte, un inasprimento delle pene, sì, per le occupazioni abitative, oltre che la criminalizzazione di altre forme di lotta come ad esempio i blocchi stradali, i picchetti antisfratto, e quindi ovviamente, ecco, saremo impegnati con tutte le altre realtà nazionali in questa mobilitazione per contrastare questo giro di vita repressivo che porterebbe ad una vera e propria criminalizzazione del conflitto per l'abitare, per il diritto all'abitare, delle lotte per il diritto all'abitare. Umberto, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza, per fatto sentire la tua voce, la lotta che state portando avanti. Ti Grazie. ringrazio tantissimo e ti mando un abbraccio e buona lotta. Grazie mille e altrettanto, grazie. Ciao. Ciao, ciao Umberto. Ben ritrovati e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siete all'ascolto del La Casa è un diritto, sono Salvatore. E La Casa è un diritto è una serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle città italiane. E nella puntata di oggi, dopo aver sentito Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti di Brescia, ci spostiamo a Desenzano sul Garda. E siamo lieti di avere come ospite Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, un collettivo molto molto combattivo. Ciao Alessandro. Ciao, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie per essere ospite qui alla Casa è un diritto. Senti, Grazie a voi. ti faccio una prima domanda. Come mai nasce il collettivo Gardesano Autonomo in una città come Desenzano sul Garda? Esatto, già hai fatto una prima osservazione. Diciamo che il collettivo quest'anno compie 10 anni e è nato con l'ambizione di costruire un percorso antagonista sul lago di Garda. Ora, per chi non conosce il territorio, parliamo della provincia bresciana, quindi in un territorio provinciale con insomma, un livello di benessere abbastanza alto, almeno per alcuni. Siamo su una delle principali località turistiche d'Italia, un territorio che non ha mai visto in precedenza esperienze di collettivi, di centri sociali, in generale di esperienze di movimento, come magari invece si possono ritrovare nelle città. Quando però 10 anni fa, come gruppo di compagni e compagne, abbiamo pensato che potesse essere una sfida importante, interessante, riuscire a costruire un percorso antagonista, quindi di lotta anticapitalista su questo territorio che non manca di essere ricco di contraddizioni. E in 10 anni, quello che è partito veramente come una vera e propria sfida, abbiamo prodotto molto, pur ovviamente con tutti i limiti del momento storico, però insomma sono stati articolati tanti percorsi di lotta, una campagna di occupazioni Zanzanù per rivendicare spazi, ma anche per contestare la privatizzazione degli immobili pubblici, così come la denuncia del consumo di suolo, del degrado urbano. Siamo stati protagonisti nel movimento No TAV perché sul lago di Garda c'è stato uno dei fronti più caldi negli anni passati di contrasto contro le grandi opere, contro la costruzione della linea alta velocità Brescia-Verona, chiaramente con quelle che sono le proporzioni, un movimento non paragonabile neanche lontanamente alla Val di Susa, però un movimento di massa, anche con momenti comunque di lotta, di blocco dei tentativi di monitoraggio, di trivelle, di lavori, e quindi anche quello è stata un'esperienza importante, così come anche la solidarietà attiva che abbiamo portato alle vertenze dei lavoratori, in particolare a due vertenze del Sicobas, nel magazzino Penny Market di Desenzano, uno dei principali magazzini in Italia, e chiaramente tutto un corollario di iniziative antirazziste e antifasciste. Ecco, un po' in estrema sintesi alcuni degli elementi che caratterizzano il collettivo, e in particolare è proprio la lotta per la casa, che è, diciamo, la colonna portante della nostra attività che conduciamo insieme all'Associazione Diritti per Tutti di Brescia. Però partiamo dal problema più grande di questi ultimi anni, si può dire, a Desenzano, cioè la turistificazione di massa e quindi anche, ovviamente, si parla sicuramente di short rent e di un problema che sta toccando un po' a tutte le città, grandi o piccole, indifferentemente, ovvero quello dello svuotamento del centro città. Assolutamente sì. Allora, in particolare, con il periodo pandemico, la turistificazione è una tendenza che ha subito e anche adesso sta subendo un'accelerazione enorme. Allora, io faccio riferimento ad Desenzano, Desenzano del Garda, che sul lago ci sono vari comuni, alcuni di piccole dimensioni, altre medie. Faccio riferimento a Desenzano perché è non solo il comune più grande del lago di Garda, ma è il comune più popoloso dopo il capoluogo, dopo Brescia, di tutta la provincia. È una cittadina a tutti gli effetti, parliamo di 30.000 abitanti, e diciamo che fino agli anni 2000, anche 2010, è stata una realtà ibrida che ha visto convivere una popolazione residente e un turismo sempre crescente. Il lago di Garda, a partire dagli anni 60-70, ha subito una trasformazione profonda e da territorio agricolo o commerciale, il commercio navale, lacustre, che ha caratterizzato soprattutto fino alla prima metà del Novecento il lago di Garda, una direttrice di merci nord-sud, e Desenzano era il porto principale, ha subito una trasformazione e si è convertito in zona turistica, proprio usufruendo e sfruttando, mettendo in rendita il bene che abbiamo in comune, che è proprio quello del lago, il lago, ecco. Da allora questo ha comportato una trasformazione profonda a livello urbanistico e negli ultimi tempi recenti anche del mercato immobiliare. A seguito delle politiche di liberalizzazione alla fine degli anni 90 e con un turismo sempre più crescente, siamo andati incontro, soprattutto in particolare col decennio passato, ad un cambiamento del mercato privato. In particolare, poco prima della pandemia, ma soprattutto in seguito della pandemia, la turistificazione, come dicevo, è cominciato a crescere in modo impetuoso. Parlo a livello immobiliare, cioè la proprietà privata si è convertita agli affitti brevi. Quindi quelli che rientrano in un periodo di 30 giorni, gli affitti turistici in senso forte, ma anche tantissimo gli affitti stagionali, in modo tale da poter affittare per 6 mesi tra autunno e inverno e dopo poter disporre della casa per finalità turistiche durante la stagione, tra primavera e estate. Il fenomeno però sta arrivando a livelli parossistici perché ormai sono 2 o 3 anni che basta consultare una qualsiasi piattaforma immobiliare per riscontrare come in alcuni casi mancano annunci di case di offerta immobiliare, cioè non ci sono case in affitto, oppure se ci sono iniziano da prezzi già altissimi, parliamo di 700 euro per un monolocale, 800 per un bilocale, ormai è difficile stare dietro al caro affitti. E le prime case disponibili, e poche, si trovano a un prezzo minimo di questo. Se si fa una ricerca sotto i 700 euro si rischia di non trovare nulla, chiaramente dipende da quando si effettuano queste ricerche. Noi a volte abbiamo provato. Non c'è più offerta abitativa. C'è tantissima vendita a prezzi sempre più alti, il prezzo della vendita cresce sempre di più, però questo è un po' l'entità del fenomeno. E stiamo di fatto riscontrando una gentrificazione che non interessa ormai più solo il centro città. Il centro del paese si è svuotato da tempo, da 20 anni. Ma una gentrificazione che coinvolge l'intero territorio comunale, cioè gli abitanti. Se va bene nelle frazioni limitrofe in campagna, ma ormai siamo espulsi dai comuni, dall'intero territorio comunale gardesano, Desenzano, per non parlare degli altri, e finiamo a Montichiari, finiamo a Calcinato, finiamo a Lonato, anche lì se va bene, cioè in comuni limitrofi che sono esterni alla cintura gardesana. E ovviamente ci sono ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, soprattutto economicamente. economicamente per il caro affitti, economicamente perché solo se si vuole usufruire di quella che è, diciamo, l'ambito dei servizi, bar, ristoranti, esatto, insomma, una gelateria, se si vuole prendere un gelato, i prezzi sono sempre più alti. E poi anche l'invivibilità, sono comuni molto piccoli che fanno fatica a reggere, però una quantità, una densità abitativa di questo tipo e una quantità di traffico che, ripeto, per come sono stati pensati e per le dimensioni di questi comuni, quando ad esempio in estate triplichiamo come popolazione, è invivibile. Ma non solo, c'è una battaglia grandissima contro i mega impianti di depurazione che vogliono costruire su Fiume Chiesa, e questa è un'altra storia, però mi lego perché in estate abbiamo la rete fognaria che va in sovraccarico e sversiamo direttamente inquinanti e reflui nel lago di Garda, altra battaglia che si porta avanti, per dire che è un sistema che poi non regge nei servizi basilari durante la stagione estiva. Verissimo. Ma a Desenzano, così come in altre città, immagino che non si parli di politiche per la casa. E cosa fanno, meglio, cosa non fanno le istituzioni? E soprattutto com'è la situazione a Desenzano del Garda e anche per i paesi limitrofi per ciò che riguarda gli alloggi popolari e le assegnazioni che di esse? Allora, purtroppo scontiamo tutti i limiti della provincia, nel senso che in provincia i comuni sono piccoli, se va bene sono in medie dimensioni, e già questo comporta un patrimonio pubblico immobiliare esiguo. In alcuni comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, parliamo di singole unità, ma piccole, proprio su una decina o addirittura assenti. E Desenzano, da questo punto di vista qui, avendo una popolazione maggiore, ne ha un po' di più, però gli immobili, le case popolari sono ferme al palo ormai da decenni, e quindi sono le liste d'attesa, sono come in tutta Italia comunque, sono enormi, sono lunghissime, e quindi c'è una situazione che è completamente bloccata. E non c'è stato nessun intervento di recupero, anche a partire dal patrimonio edilizio comunale, alcuni edifici inutilizzati all'asta o in alienazione da anni, che potevano essere a questo punto riconvertiti per una finalità abitativa. È una delle questioni che abbiamo posto nel dibattito politico nei vari anni di lotta. E c'è un'espansione urbanistica che, da un lato, per fortuna, dopo la crisi del 2010 ha subito una battuta d'arresto, però se si costruisce si prevede sempre la costruzione di housing sociale, cioè alloggi di proprietà di cooperative, che sì, da un lato forniscono anche dei servizi, educatori, psicologi, però sono proprio perché hanno questi servizi, hanno costi molto alti, oppure se non li hanno, sono comunque alloggi poco al di sotto di un prezzo di mercato che cresce sempre di più. E, diciamo che i comuni si nascondono dietro il paravento dell'housing sociale, ne prevedono una piccola percentuale e dicono di favorire un'edilizia convenzionata, e quindi per le fasce più povere. Ma chi è povero? Per non parlare di chi è disoccupato, che non ha proprio un reddito, ma chi è molto povero non può comunque accedere a un canone d'affitto se non è sociale, se non è proporzionato al suo reddito, come nel caso degli alloggi popolari. E quindi questa è un po' la situazione. C'è un disinteresse totale, ma una scelta politica consapevolmente portata avanti. Se ne parla perché c'è il collettivo, se ne parla perché c'è l'azione con diritti per tutti che si porta avanti come intervento pubblico, che ci permette a livello mediatico e di pressione politica di aver posto questa questione, che se no sarebbe rimasta taciuta e diciamo subita da chi non riesce ad accedere a una casa popolare. Però le istituzioni, soprattutto poi in questa fase di turistificazione e quindi di una gentrificazione totale, di una, tra l'altro, una tendenza addirittura al lusso, che qui prima non conoscevamo, ma c'è una tendenza a un turismo anche sempre più di lusso, se ne disinteressano completamente. Ma tu hai parlato di patrimonio pubblico, come viene gestito? quel che c'è di patrimonio pubblico? Viene venduto per fare cassa. Viene venduto per fare cassa. Un esempio, noi avevamo in centro un'ex ragioneria, un ex istituto scolastico. Hanno provato per 13 anni a svenderlo, perché a un certo punto è stata una svendita all'asta. Chi se l'è comprato? Se l'è comprato il presidente degli albergatori. E diventerà una struttura ricettiva probabilmente, insomma, rivolta a una fascia di reddito alta, perché è in pieno centro storico. È un esempio, ne potremmo fare altri. Parchi pubblici o altri spazi vengono ceduti o in affitto privati con contratti, con convenzioni per 20 anni, o proprio svenduti. Noi abbiamo occupato un immobile proprio in riva al lago, è stata la nostra prima occupazione, che tra l'altro aprì un dibattito a livello provinciale, addirittura un dibattito molto forte, un'occupazione che durò tantissimo, ma perché ricevette oggettivamente un sostegno anche popolare. Aprì un dibattito su questo immobile lasciato al degrado per tantissimi anni in riva al lago. Alla fine, dopo anni, sono riusciti ad assegnarlo a un privato, e adesso è un ristorantino di lusso, perché chiaramente un immobile comunale in riva al lago non può che diventare un ristorantino di lusso. Questa è un po' la logica con la quale viene pensato, con la quale si pensa allo sviluppo urbano, ecco. Chiaro, chiaro, chiaro. E senti una cosa, tu prima hai parlato di affitti. Immagino che anche cioè, immagino che per famiglie monoreddito, persone migranti economici, nuove coppie o non so, single, sia sempre più difficile affittare come anticipavi tu prima. Com'è attualmente proprio la situazione, affitti e caro affitti? Diciamo che dalla difficoltà stiamo passando a un'impossibilità. Un'impossibilità, innanzitutto, per le condizioni contrattuali di chi è lavoratore oggi o lavoratrice, nel senso che chi è precario automaticamente non può accedere a una casa in affitto. Nessun proprietario concede in locazione un immobile a chi non è precario. E già qui, per quanto riguarda una questione anagrafica, chi è giovane, se non ha la fortuna di avere un tempo indeterminato, è automaticamente escluso. E, da un punto di vista reddituale, è difficile che un singolo, ma anche una coppia, una giovane coppia, riesca a reggere affitti che, come dicevo prima, partono da un minimo di 700-800 euro. È ormai un territorio per ricchi, che si preclude la possibilità che migranti, che giovani riescano ad abitarlo, a meno che non si faccia una scelta tra coetanei di dividere uno stesso alloggio, anche se molte case però sono bilocali, se va bene trilocali, quindi è anche la possibilità di riuscire, diciamo, a condividere spese. Poi chiaramente aumentando i locali aumenta anche l'affitto. Stiamo passando un'impossibilità, un territorio che ormai non è più per residenti, per chi ci vuole vivere, ma ormai a solo misura di turista, ma questo non è uno slogan, questa è la realtà materiale che riscontriamo. Chiaro, chiaro. E voi come avete anche uno sportello, sbaglio? Sì, attivo dal 2014, che però lavora in sinergia con quello di Brescia, di Diritti per Tutti. Spesso avete di fronte situazioni di sfratti, immagino. Com'è l'attuale situazione per quanto riguarda gli sfratti? Perché comunque abbiamo letto anche da alcuni vostri post che comunque la situazione è abbastanza seria. Sì, allora bisogna dire che non è ai livelli dell'emergenza abitativa, quella, Certo. diciamo, quella maiuscola del decennio scorso, quando eravamo arrivati a 70.000 sentenze di sfratto in un anno. E quindi, diciamo, non siamo a quei livelli. Gli sfratti sono un fenomeno strutturale, quindi permane come problematica. Però quello che stiamo riscontrando a livello bresciano, oltre che gardesano, è che se fino al 2020-2019 le famiglie che si rivolgevano a noi erano famiglie che avevano perso reddito, perché avevano perso, perché non avevano un salario, perché erano disoccupati o era successo qualcosa, oppure nuclei familiari di persone con forme di disagio, di difficoltà anche personale, che però a maggior ragione hanno diritto a una casa e non devono essere penalizzati da questo sistema economico. E tuttavia, a partire dalla pandemia, adesso abbiamo un'inversione di tendenza, cioè si rivolgono a noi famiglie che hanno lo sfratto, però paradossalmente hanno un'autonomia sul piano economico. Addirittura diverse famiglie che hanno una busta paga piena a tempo indeterminato, ma non riescono ad accedere a una casa. Questo fenomeno interessa soprattutto chi è migrante. C'è un razzismo, un approccio razziale proprio dei proprietari di casa, che chi è migrante, chi è straniero, non affittano. Noi abbiamo diverse testimonianze, abbiamo fatto anche delle video interviste, ma è una questione che riscontriamo con mano. Chi è di origine migrante, dico origine perché a volte sono italiani, sono cittadini, ma per il fatto che hanno un nome che non è europeo, che non è italiano, o un'apparenza che non è bianca, se non sono bianchi, non trovano affitto. Abbiamo avuto casi di sfratto in cui l'inquilino presentava all'ufficiale giudiziario un malloppo di mail e di risposte di agenzie immobiliari su tutto il territorio, ma andando fuori dal lago, andando anche in provincia, ma non trovano d'affitto. Questo è un problema specificatamente di chi è origine migrante, che è soprattutto penalizzato, ma in generale il dramma di adesso: abbiamo famiglie che potrebbero avere una casa in affitto, ma non gliela affittano. Immagino che ci siano anche abitazioni vuote, sfitte, o sbaglio, proprio per far crescere anche, diciamo, per far crescere gli affitti di chi ha più case, ad esempio. Sì, in particolare, visto che parliamo del lago di Garda, c'è stata un'espansione urbana tremenda e un consumo di suolo notevole, ma alla fine quelle che sono state costruite, parliamo di villette a schiera, giusto per dare un'idea, sono o sfitte, solo nel 2016 erano centinaia, 800 erano state calcolate, quasi un migliaio, sfitte intendiamo proprio inutilizzate. Ma poi un patrimonio immobiliare enorme, parliamo, si stima un terzo o anche di più, secondo un censimento fatto proprio nel 2016, di seconde case, cioè di case che sono vissute soltanto durante la stagione estiva. È un luogo, il lago di Garda, diciamo, è la villeggiatura della medio ricca borghesia, e quindi abbiamo un patrimonio immobiliare inutilizzato di fatto, proprio per questa economia turistica. Certo. Quali sono le vostre possibili soluzioni? Voi che tipo di lotta e azioni attuate contro questa politica di sfratti, sgomberi o di mancato recupero di case del patrimonio pubblico? Allora, sicuramente le istituzioni vanno spinte, vanno obbligate per quelle che la possibilità dei rapporti di forza. Dico questo perché da sole non si muovono, servono altri interessi, però a potenziare e incrementare il patrimonio edilizio pubblico, quella è la prima emergenza. A maggior ragione se sempre più il mercato privato non assorbe la domanda di affitto. Quindi questa è la prima cosa basilare, però non basta, perché ormai è un fenomeno di massa, è un fenomeno strutturale, e lì bisogna intervenire con un'inversione di tendenza. Dagli anni 90 noi stiamo vivendo una liberalizzazione del mercato immobiliare dopo l'abolizione dell'equocanone, bisogna reintrodurre una regolarizzazione del mercato, bisogna reintrodurre quelli che erano alcuni strumenti, magari modificati o potenziati, che erano previsti dall'equocanone. Poi il ragionamento andrebbe allargato, però per semplificare, qui va fatta un'azione che però deve essere coordinata e portata avanti sul piano nazionale per imporre all'ordine del giorno una regolarizzazione del mercato. Solo in quel modo si può impedire, si può bloccare e addirittura invertire la tendenza della turistificazione e poi del caro affitti. Questo secondo noi è ormai una questione centrale, perché qui non è soltanto il problema abitativo di fronte alla speculazione, alla liberalizzazione, non è più solo delle fasce sociali povere che non riescono ad accedere a una casa in locazione. Nel momento in cui il mercato si converte al turismo, all'affitto breve, o alla vendita o a affitti stellari, allora a quel punto è un fenomeno che colpisce tutta la popolazione inquilina in Italia, che è circa un terzo, e quindi bisogna dare delle risposte invertendo la tendenza. Il fatto che noi abbiamo visto anche l'anno scorso Lanci o addirittura alcuni comuni come Firenze, parliamo di comuni non turistificati di più, che a un certo punto hanno balbettato verso il governo di minimo regolamentare, vuol dire che le contraddizioni sono effettivamente fortissime. Però se non c'è un movimento reale che le fa emergere, la forza degli interessi economici prevale. E quindi ecco, le direzioni sono queste: recuperare il patrimonio edilizio pubblico. Nel caso bresciano quello sfitto non è così rilevante. Per esempio, se andiamo a Milano, lì c'è un disastro di case pubbliche a migliaia che sono inutilizzate. Qui il fenomeno è più contenuto, però invece di lasciare inutilizzati edifici pubblici andrebbero eventualmente riconvertiti, oppure se proprio se ne devono pensare delle espansioni urbane, ed a questo punto bisogna prevedere l'edilizia popolare, perché il patrimonio è fermo da decenni e addirittura magari viene privatizzato, e poi regolamentazione del mercato. No, ma infatti tu parlavi di, hai detto bene, che comunque qualche comune ha balbettato qualcosa che riguardava una regolamentazione degli affitti brevi, ma comunque ancora tutto tace, ancora tutto è fermo, e immagino che l'estate prossima, già dall'inizio primavera, sarà un delirio, veramente un delirio. Ti volevo chiedere, ma la vostra la lotta che portate avanti come collettivo è ascoltata, non dico dalle istituzioni, ma ha smosso almeno la sensibilità o anche l'appoggio dei cittadini e delle cittadine di Desenzano del Garda? Il tema sfratti è un tema in parte divisivo, perché quando difendi una famiglia c'è un proprietario privato che viene considerato vittima, e questo, c'è un po' questa narrazione, a parte che a livello nazionale vediamo delle trasmissioni che stanno scientificamente portando avanti una campagna da tempo di criminalizzazione verso gli inquilini, verso gli occupanti, gli inquilini resistenti. A parte questo, comunque sul tema sfratti sì, chi è più sensibile, chi ha un minimo di sensibilità politica e sociale, sicuramente la nostra attività in questi anni ha saputo far emergere quello che noi chiamiamo un lato oscuro. Lago di Garda è un'immensa città vetrina, noi abbiamo il compito di far emergere quello che invece è nascosto, l'altra faccia, diciamo, della luna: la povertà, la precarietà di chi è stagionale, perché è un'economia che, a parte che produce scarso valore, ma lo produce sulla pelle di precari, di lavoratori stagionali, di lavoratori intermittenti, di lavoratori interinali. Quindi è un'economia di lavoro nero in particolare. E noi facciamo emergere questo lato oscuro e facciamo emergere la questione degli sfratti. A volte abbiamo fatto dei picchetti nel cuore della città vetrina, in piazza, con la bandiera stop sfratti in mezzo ai turisti, ma il nostro compito è proprio sollevare il velo, ecco, sulle contraddizioni sociali che ci sono. E quindi c'è stato sicuramente un lavoro di sensibilizzazione, a parte la questione più importante di organizzare materialmente la resistenza e degli inquilini, e devo dire, su questa lotta i risultati si ottengono. Quando c'è un nostro intervento, e parlo nostro come movimento bresciano, comunque nel piccolo, nel grande, in alcuni casi si ottengono dei risultati e c'è un cambiamento di atteggiamento da parte dei proprietari, degli ufficiali giudiziari, della polizia e via dicendo. Addirittura qualche anno fa, ma questa è un'altra storia, abbiamo strappato un tavolino sfratto, un tavolo sfratti in prefettura, quindi un meccanismo anche regolativo. Ma a parte questo aspetto, che è quello più importante della difesa concreta degli interessi dei lavoratori e lavoratrici, dei disoccupati, oltre a questo, sulla questione turistificazione, anche lì abbiamo aperto un dibattito politico, qui con azioni più di denuncia, di sensibilizzazione, flash mob, conferenze stampa, o faccio l'esempio dell'8 dicembre, un giorno diciamo festivo e quindi di affluenza turistica, abbiamo organizzato un presidio anche simbolico, di impatto visivo, con tende, con striscioni, per denunciare la turistificazione. Ci ha colpito tantissimo il riscontro che abbiamo avuto di persone di tutte le età, di diversa estrazione sociale e anche politica, che però a leggere degli slogan molto chiari contro gli affitti brevi, contro la turistificazione, si sono avvicinati spontaneamente. Da tempo che insomma non si vedeva un'iniziativa che riscuoteva un simile riscontro. Riscontri ce ne sono sempre, grandi o piccoli, ma questa ci ha colpito visibilmente, ci ha confermato ulteriormente quanto questo tema sia attuale, sia di massa, ma non trovi un soggetto che lo faccia emergere, non trovi un'organizzazione che si faccia rappresentante degli interessi. Poi è molto difficile, perché organizzare privati, perché poi parliamo di privati che non si conoscono, dispersi, che però vivono questo problema abitativo, non è semplice, e vorremmo fare una serie di ragionamenti su questo. Così come la turistificazione, come dicevo prima, in comuni hanno margini limitati, va fatto un ragionamento nazionale, però cominciare a sollevare la questione permette di comunque diciamo far esplodere il bubone, ma soprattutto anche raccogliere oggettivamente consenso su questo, consenso e solidarietà. Ti faccio una domanda che stiamo facendo un po' a tutte e a tutti di chi interviene, diciamo, alla Casa di un Diritto, perché in questo, diciamo, quadro di crisi abitativa, non è più un problema, ma è una vera e propria crisi, ma in ogni paese, in ogni città, grande o piccola o media che sia, infatti voi ne siete l'esempio, come si può costruire e portare avanti un conflitto sul tema? Ad esempio, voi siete riusciti a fare rete con l'Associazione Diritti per Tutti, e quindi noi crediamo che questa lotta sia molto importante portarla avanti anche attraverso la creazione di reti tra i vari collettivi. Assolutamente, è stato un po' il nostro principio guida, l'unità e l'incremento delle forze. Abbiamo sempre cercato, ragioniamo sempre in termini di rete, di coordinamento, di estensione, di forme anche superiori di organizzazione, perché senza questo non si incide sui rapporti di forza. E quindi fin da subito noi abbiamo iniziato ad affiancare Diritti per Tutti nella lotta antisfratti e dare il nostro contributo organizzativo. E con i picchetti antisfratto in tutta la provincia di Brescia, non solo il capoluogo sul lago di Garda, in tutta la provincia, con le occupazioni abitative, con le occupazioni dei comuni, degli uffici comunali, nei casi in cui le famiglie, diciamo nei casi più gravi, dove non si sbloccava la situazione, con manifestazioni, con presidi, con tutto quello che è l'armamentario del movimento di lotta per la casa, si sono difese concretamente le famiglie ottenendo un passaggio da casa a casa, temporaneo in alcuni casi, ma è poi propedeutico ad una soluzione. Questo chiaramente riuscendo a costruire mutuo soccorso, riuscendo a organizzare chi è sfrattato e via dicendo. Però il problema della casa non è un problema locale, come tanti problemi, è un problema di riflesso generale, e quindi noi riteniamo che si debba passare dal particolare al generale, riuscire quindi a organizzarsi a livelli più alti. In realtà si sta facendo, noi come collettivo diamo il nostro contributo, però insieme a tanti altri. Infatti da 2 anni si è iniziato un lavoro tra diverse città di rete e si sta sostanziando nel bollettino Casa in Rivolta. Mm-hmm. È un bollettino delle lotte abitative che è uno strumento di confronto, di scambio, di diffusione, ma anche appunto un terreno di dialogo. Milano, Pisa, Bologna anche, Brescia chiaramente, Verona, anche alcuni compagni di Roma, poi sicuramente adesso mi dimentico qualcuno, Parma, insomma sono diverse le città. E poi da settembre anche ci stiamo confrontando tra compagni e compagne anche di altre città per organizzare un'assemblea nazionale e quindi ricostituire un ambito di discussione e di organizzazione più ampio che è stato perso, ma è fondamentale, basilare se si vuole portare avanti campagne comuni e quindi in grado di incidere anche sul piano dei rapporti di forza o perlomeno uscire dai vari localismi, dai vari particolarismi che sono il punto di partenza, perché ognuno deve partire dal proprio territorio, ma che se rimangono nel territorio rimangono resistenze importanti, ma appunto destinate sempre a stare sulla difensiva, su un piano generale che purtroppo non, diciamo, la cui tendenza non è positiva, questo dobbiamo dircelo, e il governo di adesso è una delle chiare testimonianze, ma non solo. Quindi per quello che possiamo fare, il contributo che stiamo dando è cercare di costruire legami, rapporti attivi di confronto, di collaborazione e di mobilitazione, speriamo nel futuro, a livello nazionale, per cercare di ricostruire quindi un ambito di movimento, di lotta per la casa che abbracci insomma le varie città e i vari territori impegnati su questo importante fronte di lotta. Alessandro, io ti faccio un'ultima domanda, perché ho visto da alcuni vostri post che siete riusciti, cioè siete intervenuti a difesa di famiglie che stavano per essere sfrattate e avete ottenuto, siete riusciti ad ottenere un rinvio dello sfratto. E ti volevo chiedere proprio in merito a questo, quali sono le prossime iniziative di lotta del collettivo Gardesano Autonomo? Sicuramente, a parte l'attività di picchetti che prosegue e non si ferma mai, strutturare una campagna politica contro la turistificazione. Mm-hmm. Cercando di elaborare delle proposte specifiche in modo tale da aprire un dibattito che vada più in profondità, al di là della sola denuncia, fare appunto delle proposte e quindi battere il ferro su questo, anche perché andiamo verso la stagione turistica. Adesso è un po' presto, però insomma abbiamo di fronte la primavera e l'estate, che è anche il periodo di maggiore fragilità ed esposizione del potere politico, proprio perché qualsiasi forma di iniziativa finisce per irrompere nella città vetrina, nella stagione turistica, con visibilità e con anche il disagio e l'imbarazzo del potere politico. Quindi diciamo che la direzione di lavoro è questa: strutturare una campagna con quelle che saranno iniziative in piazza e eventualmente anche ci doteremo anche di altri strumenti. È ancora una fase, siamo in una fase di elaborazione e di confronto su questo, però dato il carattere del nostro territorio ormai iperturistificato sempre di più, questo sarà sicuramente il nostro terreno di lavoro. Alessandro, io ti ringrazio per aver partecipato alla Casa di un Diritto, per aver portato la lotta del collettivo Gardesano Autonomo e per averla fatta conoscere, e quindi ti ringrazio di cuore veramente per aver portato a Radio Quar la tua testimonianza, anzi la vostra testimonianza e la vostra lotta. Ma grazie soprattutto a voi proprio per averci dato questo spazio e dare la possibilità ai movimenti di lotta per la casa di raccontare le loro esperienze, insomma, di riportare un po' quelle che sono le lotte che con fatica, e però anche c'è da dire con soddisfazione, si costruiscono, si portano avanti. Grazie. E quindi vi auguro buona lotta. Un saluto a tutti, grazie a tutti e tutte.